Come mi dispiace, piccola mia. Quante volte il cuore trema al cibo di un'altalena ruvida sulla tua schiena, esili di 12 anni in bilico fra l'esser donna a rendersi mia acerba mela. Capirò.